Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. I libri, ma quelli digitali, gli ebook ormai ci sono intorno a noi, possono essere particolarmente significativi per i contenuti scientifici e infatti sentirete dai titoli che adesso arrivano che incominceremo proprio da questo argomento. Immagini, articoli di giornale e collegamenti ipertestuali sono i nuovi ingredienti degli ebook e adesso si pensa anche ai saggi scientifici digitali. Scienza Express, la casa editrice di scienza con i lettori abbonati. A pochi mesi dalla nascita, il progetto funziona. Quando i professori di scienze dell'Università di Pisa andarono in battaglia con i loro studenti. Era il 1848 e un libro racconta quei giorni. La domanda di Roberto per la rubrica delle domande impossibili questa settimana riguarda veicoli e GPS. Cuore alla Koch è il titolo del libro, dell'ebook che abbiamo scelto per descrivere. Del romanzo digitale che abbiamo scelto per descrivere. Come funziona la nuova generazione dei libri che troviamo non in libreria, ma sul web. Chiara Albicocco è qui con me. Buonasera a te. Abbiamo già in linea Mauro Mazzetti. Buonasera, buonasera da Roma. E poi anche Maria Cecilia Averame. Buonasera, Averame. Buonasera a voi. Editrice di Mazzetti. Mazzetti, non l'abbiamo detto, è l'autore del libro Cuore alla Koch. E poi ovviamente abbiamo la responsabile della casa editrice che ha appunto editato il libro di Mazzetti. E incominciamo da Cuore alla Koch, un titolo un po' inquietante, Mazzetti. Non so, tutti sanno che la Koch sono le due uova. Le uova, non al tegamino, ma insomma, per sì, intenderci. No, certo. Va bene, cominciamo. Sì, perché il Cuore alla Koch è un cuore né crudo né cotto. Quindi è a metà tra natura e cultura ed è sempre in cerca di qualcosa. Nel caso di questo libro è sempre alla ricerca di un certo bacio che è immaginato o al limite provato nel passato ma non più ripresentatosi. Il libro parla un po' di questo. La sua storia è del tutto una storia, un romanzo come siamo abituati a pensarlo. La cosa che ha in più e per cui ne parliamo qui a Mebius è il fatto che è un libro corredato da foto, da articoli di giornale, da anche link, quindi esterni, collegamenti di ipertesto, e tutto questo in un unico capitolo, Mazzetti. Sì, cioè un capitolo soltanto, anzi è un capitolo che è uno e trino, perché è un capitolo che si contraddice e dà un raccordo tra sé e la sua contraddizione. E poi è pieno di collegamenti, durerà 40 pagine in tutto questo capitolo qui. Tutto il resto, tutta la vicenda si svolge o in nota o nei vari collegamenti. In più ci sono anche delle richieste a esperti del settore, per esempio se arriva un elicottero, io regalo questo elicottero a un mio amico e gli dico parlami di questo elicottero, se c'è bisogno di un articolo di giornale telefono a Vittorio Zambardino e me lo faccio scrivere, se ho bisogno di una poesiola chiamo Pasquale Panella e mi faccio scrivere la poesiola. Com'è che sarebbe questa cosa? Cioè Vittorio Zambardino, che poi è quello che cura il web di Repubblica, ma cosa vuol dire che scrive lui? Ha scritto un pezzo per me, sì. Ah, ok. Ha scritto apposta un pezzo. Ci sono pezzi di collaborazione esterne, diciamo, laddove io sentivo la necessità, non sapendomelo fare da solo, ho chiesto ad amici di farlo al posto mio. Un testo nel testo, come dire. E che poi se il lettore vuole lo clicca, se non vuole no, cioè va avanti nel suo racconto come se fosse un romanzo tradizionale. Se non vuole no. L'editore dice che leggere questo testo è un po' come navigare su Wikipedia. Ah, quindi molto interattivo, dove ognuno approfondisce ciò che non sa o ciò di cui vuole saperne di più. Ecco, ma c'è in termini quantitativi, abbiamo un asse centrale che sono appunto queste 40 pagine che potrebbero effettivamente essere anche su cartaceo, però in termini di quantità di cose al contorno ce n'è tanta. Ci sono circa 850 pagine di PDF. Questa è la differenza. Posso confermarlo perché me l'ha inviato, l'ho scaricato anche io, e sono 850 pagine di approfondimenti. Sono veramente tante. Beh, diciamo che le 40 pagine rappresenterebbero un po' il tempo attuale, cioè una cosa che un viaggio in macchina, diciamo da casa all'università, e tutta la vicenda invece si svolge poi in giro per il libro. Ci sono, che ne so, interviste al tipo che avrebbe assistito al finale, però non è stato capace di raccontarlo. Allora l'autore lo intervista per chiedergli meglio, no? Per riuscire a capire meglio com'è andata questa fine. E quella, sai, una notarella da qualche parte. Poi c'è un romanzo nel romanzo, perché una festa che non si svolge, però viene raccontata, ne viene raccontata un'altra in un paese vicino. Ci sono cose così, insomma. Con la caratteristica che vorrei che si capisse che lei nasce come scrittore tradizionale. Poi come le viene in mente? Ecco, e anche lo stile del romanzo e la sua bravura, insomma, si legge nelle pagine. Ecco, non è che sia un libro meno bello perché è multimediale. È ugualmente storioso. Però poi come le nasce l'idea di creare questa sorta di ipertesti, di link, di collegamenti in più? Cioè, un lavoraccio. Beh, diciamo che è stato anche molto divertente. Allora, questo libro esisteva già quando l'editore mi chiese se avevo qualcosa che faceva al suo caso. Lui disse, lui e dico lei, perché sa, Maria Cecilia Averame ha un collaboratore che è colui con cui io ho lavorato più a stretto contatto, mi chiese se avevo qualcosa per lui. Io gli diedi questo libro perché nasceva già così, c'era questo capitolo e poi tutta la storia che si svolgeva in nota. Lui piacque e mi disse perché non lo arricchisci, e io mi sono divertito tantissimo, ci ho messo 2-3 mesi a portarlo da 300 a 800 pagine, è stato veramente veloce. Maria Cecilia Averame, devono essere sempre queste le quantità in gioco, cioè effettivamente un testo centrale che magari è anche di 150 pagine ma decisamente molto di più al contorno? Assolutamente no, c'è ampia libertà, tra l'altro il digitale permette di spaziare, abbiamo dei testi di 5.000 pagine per esempio e ne abbiamo poi appena pubblicato uno che è un'inchiesta e quindi sarà una 40-45 pagine, non è questione di numeri di pagine o di spazio, l'importante è la valorizzazione del contenuto che c'è all'interno. E quindi adesso andremo su questo tema, ma ci fermiamo un attimo per sentire cosa succede nel traffico e poi ritorniamo da voi e Booker. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono con noi a Mebius questa sera Mauro Mazzette, autore di Cuore alla Coq, che è un ebook, quindi un libro digitale, e Maria Cecilia Averame, che è responsabile della casa editrice che ha pubblicato questo libro, ne sta pubblicando parecchi altri, ed è la Quinta di Copertina, il sito è quintadicopertina.it. Maria Cecilia Averame, stavamo parlando con lei e dicevamo che non è che la formula fondamentale deve essere un testo centrale che può essere anche relativamente breve e tantissimo intorno. Ci possono essere diverse versioni che esaltano questa, come dire, potenzialità in più che ha l'ebook. In particolare, secondo lei, quali sono proprio i valori centrali dell'ebook? Ma allora, ci sono alcune cose che lo differenziano nettamente dalla carta e sono quelle che noi abbiamo scelto per proporre dei testi diversi da quelli a cui siamo abituati, e sono sicuramente l'interattività, la possibilità quindi di navigare all'interno e di selezionare le parti che si vuole leggere e che si vuole approfondire. Mauro Mazzette in un certo senso lo ha fatto viaggiando nella fantasia con la narrativa, ha costruito un testo di 40 pagine arricchito da una serie di note, contenuti, eccetera eccetera. Pensate anche a un testo di altro genere, quanti lettori potrebbero preferire approfondire un dato specifico piuttosto che un altro? Attraverso l'ebook si può offrire la stessa opportunità a entrambi i lettori e poi ognuno dei due potrà scegliere che cosa leggere oppure no. Altre caratteristiche sono sicuramente la velocità. Noi per esempio proponiamo degli instant book, che sono delle inchieste realizzate in tempo relativamente breve e proposte ancora sul momento, quando il fatto è ancora vivo. Per esempio adesso ne abbiamo fatto uno sul referendum del 12 giugno, tagliando i costi e i tempi di stampa e di distribuzione si riesce quindi a essere molto diretti. Sì. Ultima cosa, la multimedialità e la possibilità di collegarsi in rete, di fornire anche approfondimenti in rete. Per esempio alcuni testi hanno dei collegamenti a video o alle fonti originarie da cui abbiamo preso certe informazioni, quindi certo. Con un rapporto molto diretto col web. Stavo proprio per chiedere questo, nel senso che anche curiosando tra le pagine di Mazzette, lui molte volte cita delle playlist, delle musiche, delle canzoni, così. In realtà un ebook dà anche questa possibilità, cioè di fermarsi nella lettura, ascoltare magari un brano, rientrare nella lettura e poi buttarsi su una definizione magari di Wikipedia. Anche anche, questo dipende anche un po' dal lettore che si utilizza, nel senso che chi lo utilizza sui tablet, sul monitor di un computer eccetera eccetera, può navigare in rete liberamente. Per chi lo utilizza su un e-reader tradizionale invece preferisce il solo testo e non si collega quindi a siti esterni, dipende un pochino anche dalle preferenze del lettore. Del singolo lettore, l'interattività, certo, non deve essere mai imposta, perché non tutti i lettori poi possono apprezzare di sentirsi una musica dietro mentre leggono. Io ragionavo, Chiara, noi siamo abituati a leggere tanti saggi di scienza e poi si è anche studiato, sì, anche direttamente dal computer. Quello che penso, no, e ci dica lei insomma se la potenzialità, insomma, se quello che diciamo è giusto, ci sembra che per i contenuti di tipo scientifico gli ebook potrebbero essere veramente una grande rivoluzione, perché è ovvio che su, no, si possono, Chiara, aprire capitoli filmati, qualsiasi altri cosa, testi, spiegazioni anche, no, difficili, che avendole di fronte ci paiono sicuramente più semplici. Voi avete intenzione veramente di andare anche nella direzione della saggistica scientifica? Le chiedo questo perché so che avete un anno, no, di vita. Siete appena abbiamo un anno di vita, sì, ci stiamo muovendo ora. Ci sono sicuramente dei progetti editoriali come questi degli Instant Book che sono più veloci come tempistiche, e poi altre come anche la Polistoria di Mauro Mazzetti, che invece richiedono dei tempi di progettazione più lunghi. E effettivamente stiamo lavorando anche sulla saggistica. Le cose che sono interessanti per la divulgazione scientifica sono un po' anche la possibilità di scaricare, quindi acquistare direttamente le parti, per esempio di un manuale di molte pagine, le parti specifiche che interessano, senza dover avere tutto il libro e quindi con un minor dispendio economico. Ecco, a Verame la fermo, perché questa qui è proprio una grande rivoluzione, cioè è un'altra concezione dell'editoria praticamente. Anzi, la riospitiamo se lo fa. No, nel senso che si tratta di organizzarsi in modo tale che si possano andare a prendere, anche con vantaggio economico ovviamente, ma pezzi qua e là nei libri. Sì, ecco, infatti c'è da dire che le 850 pagine di Mazzetti, che è un romanzo vero e proprio, costano 4,49 euro, appunto scaricabili direttamente da casa sul sito quintadicopertina.it, quindi c'è anche questa comodità. Esattamente, sì. Per la divulgazione scientifica poi questo può essere veramente interessante, magari soprattutto anche nel settore universitario, dove i testi hanno un costo ampio. Il futuro poi sarà anche la correlazione fra i diversi libri, per cui se io tratto un argomento trasversale è possibile che possa attingere da diverse discipline, e quindi invece che scaricarmi il manuale della data materia possa aver bisogno di diversi contenuti di ambiti differenti. Assolutamente sì. Mazzetti, un'ultima curiosità: è più facile o più difficile scrivere un ebook? Sinceramente è diverso. È come se, vivendo, per esempio, io passo per una strada, do attenzione a soltanto a certe cose. Invece io posso scrivere questa strada dando attenzione a tutto quello che mi viene in mente. Un po' più difficile, insomma, non può essere entusiasmante e divertente, però insomma un lavoro più denso. Sicuramente è diverso. Io mi sono divertito tantissimo ed era tempo che non scrivevo così diffusamente, quindi l'ho trovato molto stimolante questo. Sì, mi è piaciuto moltissimo. Penso che si possano fare proprio cose totalmente nuove anche proprio dal punto di vista della narrativa autorale, sì, che le stiamo ancora scoprendo, ecco infatti questo è il bello, che è ancora tutto da scoprire. Sì, c'è anche creatività nuova che potrebbe entrare in campo. Mauro Mazzetti, grazie, buonasera. Maria Cecilia Verame, anche augurissimi per la casa Quinta editrice di Copertina. Buonasera, grazie a voi. E buonasera a tutti. Chiara Albicocco se n'è andata provvisoriamente perché tornerà con una delle domande impossibili ai nostri ascoltatori. Invece qui con me c'è Alberto Agliotti. Ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Il mio gemello è più giovane di me, ha viaggiato molto, non so perché. Se avessi studiato l'avrei presto spiegato, ma a scuola in fisica avevo 3. La rima è evidente. È evidentissima. Esatto. Da Giovanni Keplero avevo un gatto nero. Daniele Gautier, buonasera. Buonasera. Editore di Scienza Express, l'abbiamo ospitato ai nostri microfoni credo i primi di gennaio, quando partiva questa avventura, e noi siamo lieti di poter dire che è andata bene. Vero Gautier? È andata bene, sì, è iniziata bene. È iniziata bene. Speriamo. Brevissimamente spieghi, perché è un'iniziativa editoriale singolare anche questa. Prima abbiamo parlato di ebook, anche questa è una sua bella originalità. Noi pubblichiamo libri classici di Caritas, ma pubblichiamo anche oggetti che stanno sulla rete, quindi ebook che possono essere scaricati, letti con gli opportuni reader, e blog e altri contenuti sempre di scienza che ruotano intorno ai nostri libri. Bene, voi eravate presenti al Salone del Libro con due libri cartacei però. Sì, noi eravamo presenti al Salone con cinque libri e abbiamo, di questi ne abbiamo presentati due. I libri che sono usciti dall'inizio dell'anno, da quando ci siamo sentiti, sono per l'appunto cinque, però abbiamo voluto dare particolare visibilità al manuale di sopravvivenza energetica di Andrea Mameli, che è un libro che sta riscuotendo un buon successo perché ha una formula semplice e diretta con la quale l'autore ci racconta come possiamo consumare meglio e essere felici. Questo vuol dire che il libro si mantiene in un delicato equilibrio fra quello che è una consapevolezza ecologica e quello che è un doveroso attenzione al risparmio anche di euro, perché in questi tempi bisogna stare attenti anche a questo. Ecco, ma i lettori sono abbonati, quindi hanno partecipato alla sottoscrizione, diciamo, hanno partecipato all'avventura della casa editrice? Allora, beh, noi abbiamo lettori che comprano i nostri libri nella modalità classica, o in libreria o sul sito o sulle biblioteche online, librerie online, scusate, ma abbiamo anche lettori che decidono che il nostro progetto culturale merita un sostegno più ampio. Allora noi abbiamo offerto loro la possibilità di comprare il pacchetto di 11 dei libri che escono quest'anno a un prezzo contato, a un prezzo ridotto del 33%, ricevendoli man mano che escono. Quando ne abbiamo tre nuovi li mandiamo. E questa formula sta funzionando? E questa formula sta funzionando, sì, l'avevamo annunciata proprio qui in trasmissione a gennaio e da allora abbiamo avuto svariate decine di adesioni, sicuramente più di quelle che ci aspettavamo. E avete rispettato le scadenze che vi eravate dati? Che di questi però tempi abbiamo rispettato, non è le cosa scadenze da poco. Con molta fatica, molto sudore e anche con qualche uscita imprevista. Giovanni Kepleo aveva un gatto nero che è l'altro libro che abbiamo presentato al Salone assieme a Piero Bianucci e Maria Rosa Menzio. E tra l'altro, per gli ascoltatori che sono curiosi, potranno vedere sul sito di Möbius un piccolo video che riguarda proprio questa presentazione. Questo è un libro che è nato in corso d'opera quest'anno da un rapporto con un blogger, giusto appunto, che è Popinga, ovvero all'anagrafe Marco Fulvio Barozzi. E un secondo libro è nato e quindi si è aggiunto alla nostra offerta e uscirà la settimana prossima, in questo momento lo stampatore sta lavorando a stamparlo, si intitola Enigma nucleare, è scritto da due giornalisti scientifici di grande valore che sono Margherita Fronte e Luca Carra e cerca di darci oggi 100 risposte dopo Fukushima con una formula che noi troviamo molto interessante, che ci ha convinto, grande vicinanza ai fatti e ai dati, come deve essere un libro scientifico, ma anche una semplicità data dal fatto che io posso consultare il libro andando a cercare la risposta alla domanda che mi cruccia in quel momento e trovo ciò che mi serve. Concluderei con un'altra rima che condensa 70 anni di elettronica, che è la seguente: due pezzi di silicio da tempo drogati su una lercia panchina si sono incontrati. Deve finire questo periodo. Uniamoci a fare un diodo. Nell'elettronica sonora apprezzati. Grazie Gutier. Buonasera. Una pausa adesso e poi ritorniamo con i professori di scienza che vanno in guerra con i loro studenti. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Andremo nel 1953 per il quiz di oggi. Pronti con gli SMS. Pochi giorni fa, il 18 di maggio, ma un bel po' di anni fa, era il 1953, girò per il mondo una notizia abbastanza importante. Quale? Per la prima volta scese in mare una nave spinta da un reattore nucleare. Ci scriverete nave. Per la prima volta si presentò sulle strade un'auto con il cambio automatico. Ci scriverete auto. Oppure, per la prima volta un jet guidato da una donna superò la barriera del suono e ci scriverete donna. Dove? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Il mio infinito, Dio, la vita e l'universo nelle riflessioni di una scienziata atea. È scritto da Margherita Hack ed è edito da Dalai. In collaborazione con IBS.it. Sono in studio con Fabio Toscano, storico della scienza. Buonasera Toscano. Buonasera. Però dobbiamo parlare anche di Risorgimento. Certamente. Perché lei è l'autore di Per la scienza, per la patria, scienza e patria però adesso si capisce, ed è la storia di Carlo Matteucci, fisico, pisano, però adesso ci arriviamo. Stanno uscendo, ovviamente era prevedibile in questo 150esimo del Risorgimento, tanti libri generali sulla storia, anche molto belli, generali sulla storia di quel periodo. Ne escono pochi e questo libro, questo suo libro, fa parte di questo stretto elenco di testi. Ne escono pochi dedicati a guardare a quel periodo da una finestra particolare, magari relativa a un fatto, relativa a un gruppo di persone. Io trovo, per quello che sono riuscito a vedere, che siano dei libri estremamente interessanti perché riescono a restituirci quelle che erano delle emozioni più diffuse, più popolari, più particolari di quel periodo, descrivendocelo effettivamente come un periodo attraversato da tante emozioni, mentre invece l'immagine che noi un po' abbiamo anche per uno studio un po' scolastico di quella del Risorgimento è fatto un po' di politica, le astuzie di Cavour, e dall'altra di guerre e di scontri, perché ce ne furono tanti. E infatti direi che potremmo incominciare da quella che è anche la parte iniziale del testo, perché un pomeriggio del 1848, era marzo, all'Università di Pisa cosa succede, Toscano? Siamo all'inizio della primavera, è una primavera molto particolare. Durante una lezione di fisica tenuta dal professor Carlo Matteucci, si spalancano le porte dell'aula e irrompono alcuni studenti che gridano: c'è la guerra in Lombardia, perché sono iniziate quelle che poi diventeranno le mitiche cinque giornate di Milano. E questi studenti e anche i loro professori dell'Università di Pisa si stanno approntando ad andare alla guerra, a combattere di fronte a quelli che considerano i fratelli lombardi, che si stanno levando contro il dominatore austriaco. E nel giro di poche ore organizzano questo battaglione universitario e partono. Il pomeriggio stesso partono. Sì, la cosa appunto sorprendente che rappresenta quello che dicevo prima, cioè questi aspetti emotivi così forti, nel giro di un paio d'ore si forma. Sì. Sono circa 400, quindi non sono sì, proprio pochi. Adesso loro avevano già formato studenti e professori un anno prima la cosiddetta Guardia Universitaria, che era questo corpo, diciamo, più o meno militare di studenti e professori che dovevano salvaguardare l'università e le istituzioni pisane e toscane. Però naturalmente non immaginavano che poi avrebbero dovuto partecipare a una vera e propria guerra contro l'impero austriaco. Non lo immaginavano, ma come arriva la prima scintilla, loro sono pronti a partire, si mettono in strada e pronti ed entusiasti e cantano un famoso canto. Sì. Questo è proprio uno dei canti più belli e più rappresentativi di quelle emotività. Vanno in battaglia, ci vanno assolutamente perché muoiono, perché ci sono feriti, perché gli scontri sono duri. Però c'è un pezzo del libro che voglio ora leggere che mi sembra significativo anche di tutto un altro atteggiamento rispetto a queste cose. Parla di un episodio specifico di battaglia che avviene intorno al Fiumosone. Sì, a Curtatone. Così, per esempio, il maggiore comandante Ottavio Fabrizio Mosotti, l'attempato fisico e astronomo di fama internazionale, ma completamente digiuno di armi e battaglie, restò al fianco dei suoi ragazzi, cercando di disporli al meglio sui parapetti difensivi, e al crescente tuonare dei cannoni austriaci si mantenne calmo e impassibile, intento ad arabescare il suolo disegnando con la punta della sciabola le traiettorie paraboliche dei razzi. Il fisico capitano Luigi Pacinotti rimase sempre in linea con la sua compagnia, Germania dopo averla condotta a testa alta oltre l'Osone nel lato più scoperto del ponte. Allora qui abbiamo i ragazzi che sono sul ponte a battagliare ma con i loro professori. I loro professori che però riescono anche a inventarsi una descrizione della traiettoria dei cannoni, dei proiettili dei cannoni, probabilmente per istruirli su un posizionamento migliore. E c'è questa compagine però che qui sembra che sia quasi divertita, no, in realtà questi ragazzi combattono, però ci sono questi due elementi. Sì, certamente, il punto è che né i professori né tantomeno gli studenti hanno la benché minima esperienza di fatti di militari, ma la imparano sul campo, la imparano all'istante. Ciò da cui sono mossi è un vero, autentico sentimento di patria. E questo in qualche modo riesce a cancellare, diciamo, tutte le lacune che hanno in fatto di cose guerresche. Di efficienza. Certamente. Da soldati. Il libro è pieno di aneddoti che mettono insieme tanti scienziati, famosi e anche molto meno famosi, ma che però erano lì sul fronte. Quindi sotto questo aspetto è una finestra sulla storia della scienza durante il Risorgimento molto interessante. Però Carlo Matteucci è anche uno scienziato, una parte del libro significativa dedica. Lui è un elettricista, oggi una professione, allora era sì, un universo conoscitivo. Lui si interessa di elettricità. Sì, lui è un fisico di formazione, studia fisica all'Università di Bologna, si specializza, diciamo, alla Sorbona a Parigi. E poi inizia da giovane, da ventenne, a intraprendere ricerche di tipo molto diversificato, molto eterogeneo, fisica, chimica, fisiologia. Poi però intorno al 1834 inizia a fissare la propria attenzione sulla elettrofisiologia, cioè tutti i fenomeni legati ai rapporti che ci sono fra organismo animale, quindi anche umano, ed elettricità. Per farla breve, Matteucci è quello che chiude la famosa polemica tra Alessandro Volta e Luigi Galvani, che si studia a scuola sulle rane. Perché noi sappiamo che quella polemica portò Volta all'invenzione della pila, che fu un momento altissimo della scienza italiana e mondiale, che ha cambiato completamente la vita dell'umanità. Però l'invenzione della pila sembrò, come dire, una confutazione della teoria di Galvani, alla quale Volta si opponeva, dell'esistenza di un'elettricità interna, intrinseca a tutti gli animali, compresi noi. Bene, Matteucci è colui che riapre, diciamo, la questione e la risolve, perché è il primo a dimostrare in maniera inconfutabile, con esperimenti estremamente ingegnosi, che dentro il nostro corpo, come il corpo di qualsiasi altro animale, scorre una corrente elettrica biologica intrinseca che adesso noi sappiamo che è presente in tutte le cellule ed è, come dire, essenziale a tutte le nostre funzioni vitali e alla nostra vita. Tant'è che Matteucci, per questa grande scoperta, vinse nel 1884 la medaglia Copley della Royal Society di Londra, che era il premio Nobel dell'epoca. Certo. All'epoca non c'era il premio Nobel per la fisica, per la scienza, non c'era il premio Nobel per niente, per nessuna cosa. E Carlo Matteucci vince questa medaglia prestigiosissima, e quindi possiamo dire che negli anni 40 dell'Ottocento è uno dei più prestigiosi scienziati al mondo. Per la scienza e per la patria, la storia di Carlo Matteucci tra scienza e risorgimento, scritto da Fabio Toscano per la collana Galapagos, edizioni Sirone. Grazie Toscano. Grazie a voi, buonasera. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha rilasciato una prima mappa che descrive lo stato delle radiazioni nell'area in cui si trovano gli impianti nucleari di Fukushima in Giappone. Li conosciamo tutti, purtroppo. Il rilevamento, in accordo con il governo giapponese, è iniziato già pochi giorni dopo l'innesco dell'incidente ed è stato effettuato con mezzi aerei che hanno sorvolato metodicamente la zona. Questo genere di ricerche si basa sulla raccolta di moltissimi dati che poi vengono maneggiati da computer, cioè sintetizzati in un modello finale della situazione sul terreno. Il rilevamento, che è un primo modello, ne seguiranno altri, sta valutando la situazione in un raggio di 80 km intorno alla centrale ed ha anche posto un arco temporale, cioè un anno. In breve, quanta radioattività ci si può aspettare in questa zona nell'arco di un anno? Il dato emerso è 2000 millisievert, ma non è su tutta la zona. Il dato si riferisce a un angolo abbastanza ampio nella direzione nord-ovest, considerata quella che, per motivi meteorologici, ha visto probabilmente la massima concentrazione di radioattività al suolo. Molto vento, sostanzialmente, andava in quella direzione. Lungo una freccia di 50 km, quindi, come vi dicevo, l'area su cui si lavora è 80 km, ma questo è un primo campionamento, lungo questa freccia di 50 km dunque abbiamo 2000 millisievert di radioattività al suolo, da qui alla metà del 2012. Pochi, tanti, si calcola che possano causare questi 2000 millisievert un caso di cancro in più della media ogni 500 persone adulte, intorno ai 30-40 anni. La sensibilità alla radiazione non è identica a tutte le età. In alcune zone del pianeta si hanno dosi naturali di radioattività, sempre disponibili in un anno, che sono anche un po' superiori a 2000 millisievert. Le autorità giapponesi cosa stanno decidendo? Bene, in un raggio di 20 km ci si sta organizzando per effettuare l'evacuazione delle popolazioni. In altre direzioni, quella nord-ovest senz'altro, si sta già pensando di estendere l'abbandono dei territori oltre i 20 km. Vedremo cosa si avrà alla fine, ma comunque non è che si possa attendere molto, perché è la dose annua che va tenuta come riferimento e i mesi stanno passando. Il traffico, adesso vediamo se è cambiato qualcosa, poi torneremo con una delle vostre tante domande impossibili, difficilissime. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, eccoti qua, Chiara, per le nostre domande impossibili. Sì, no, sono tornata. Non per siamo parlare mai andati nello spazio. No. Non siamo con mai andati ancora con le domande con impossibili. Con le domande, cucchiaino, nello la carta metallica. No, no, no, no. Però ci andiamo questa volta. Questa volta con il nostro ascoltatore Roberto, che ci ha inviato una lunga mail molto dettagliata. E però vorrei raccontarti un piccolo aneddoto sul nostro ascoltatore. Dimmi tutto. Che fuori onda mi ha confessato che lui ci ascolta tramite podcast. Diciamolo, quindi se qualcuno fosse interessato come Roberto ad ascoltarci nel podcast può farlo andando su www.moebiusonline.eu e trova il tastino insomma per collegarsi al podcast. Ma la cosa divertente è che Roberto ci ascolta mentre nuota. Uibò. Sì, mi ha confessato questo. Lui va 3 volte a settimana in piscina e ci porta dietro. C'ha quelle radioline impermeabili che sono state studiate, sì, apposta. L'ha costruita in realtà lui, ci dice, che ha fatto tutto un sistema per cui ha comprato ovviamente le cuffie subacquee, quelle che vanno sott'acqua, e poi ha comprato lo scatolotto di plastica per metterci iPod o quant'altro, e dice che gli teniamo compagnia a fare queste 50 vasche 3 volte a settimana. Ci mette sott'acqua. E ci dice anche che se vogliamo possiamo fare più puntate perché lui va più volte, quindi ci consiglia di fornirgli altro materiale. Vabbè, adesso ci stiamo Proveremo, lavorando. Sentiremo l'editore. Allora, e ora direi la domanda. Vorrei avere un parametro per capire meglio quando mi trovo in giro per la città, parlo di giro a piedi, e quindi su strade di vario tipo, qual è la situazione ottimale per poter ricevere il segnale GPS, o meglio, strade strette e palazzi alti. Ho notato che rendono difficoltoso la ricezione, ma qual è questo, diciamo, il fatto stretto è molto relativo. Per quello che mi interesserebbe sapere qual è il rapporto tra la larghezza della strada e l'altezza del palazzo che mi consentono di ricevere il segnale. Io mi sono trovato all'estero e ho provato il sistema GPS e mi trovavo delle strade molto ampie e la ricezione era ottimale. Di contro, quando entravo nel centro storico della città a piedi, e ovviamente perdevo il segnale. Abbiamo in onda questa sera, per rispondere a questa domanda, Mattia Crespi. Buonasera Crespi. Buonasera a lei. docente di posizionamento e geomatica alla Sapienza di Roma, e credo che sia una disciplina che ha a che vedere esattamente con queste cose che riguardano. Anche questa volta abbiamo beccato la persona quello giusto. Oh, dunque il nostro ascoltatore dice: che cosa devo fare? A partire dalla sua domanda dovrebbe buttare giù degli edifici, perché non si capisce, cioè se la strada è stretta e non riceve il segnale non ci si può fare niente. Però ci dica lei. Allora, la domanda è molto chiara e pone certamente uno dei problemi del GPS, che è un sistema molto efficiente per fare posizionamento, ma anche lui dei limiti. Diciamo che non è possibile in termini generali definire un parametro, ad esempio quello citato dall'ascoltatore, il rapporto tra la larghezza e l'altezza degli edifici, anche perché dipende molto dal luogo in cui mi trovo e dall'ora in cui mi interessa posizionarmi, nel senso che la costellazione dei satelliti GPS, attualmente molto ricca, sono circa 30 satelliti disponibili, è continuamente variabile e quindi, in dipendenza delle diverse ore del giorno, io ho i miei satelliti che si trovano ad altezze sopra l'orizzonte diverse, continuamente diverse, anche se io sto sempre nello stesso posto. Ma non ci sono degli orari fissi, però, cioè non è che prende meglio il di giorno e prende male la notte, sono arbitrari. No, non c'è a parità di disponibilità del cielo, io parlo sempre così quando racconto queste cose ai miei ragazzi, quindi di visibilità del cielo in un certo luogo il GPS funziona bene alla stessa maniera di giorno e di notte, però diciamo che assolutamente funziona in maniera diversa e quindi con qualità del posizionamento diversa, anche molto diverse tra loro, al variare del momento della giornata, proprio perché io ho satelliti che possono essere alti o bassi e quindi i segnali possono essere o meno ostruiti. Quindi Crespi, in pratica, per rispondere ancora più concretamente, lo stesso vicolo stretto può essere raggiunto bene o raggiunto male a seconda del momento in cui ci si trova in quel vicolo. Assolutamente sì, e quindi questa è diciamo una conoscenza che si è acquisita direi all'inizio dell'uso del sistema GPS in Italia ormai 22-23 anni fa, quando sono comparsi i primi GPS in ambito assolutamente tecnico-scientifico. Si sa benissimo che se io ho la necessità di posizionarmi in luoghi particolarmente difficili dal punto di vista della ricezione del segnale, devo fare un'accurata pianificazione, cosa che è possibile, nel senso che io posso sapere a priori dove troverò i satelliti in un certo momento, in un certo posto, e quindi in funzione delle ostruzioni che ho in quel luogo capire se ho sufficientemente disponibilità di satelliti oppure no. E in funzione di quello che ha appena detto, allora magari possiamo auspicare un miglioramento del servizio, cioè potenziamento di questo servizio, oppure sarà sempre così? Allora, il potenziamento ci sarà fisiologicamente e ci sarà soprattutto quando il sistema GPS sarà interoperabile con altri sistemi analoghi. Già adesso in ambito tecnico-scientifico è molto comune utilizzare il GPS insieme al sistema russo GLONASS, che è molto simile al GPS. Si sta facendo sulla diciamo dal punto di vista della disponibilità satellitare altri due grossi sistemi, il sistema cinese Compass Beidou e il sistema implementato molto alla svelta europeo Galileo. Quando questi quattro sistemi saranno completamente disponibili, avremo intorno alla Terra circa 100 satelliti e quindi rispetto agli attuali 40-45 saremo sicuramente messi meglio. Un'ultima cosa per chiudere, come diceva l'ascoltatore, se ci troviamo in un grattacielo, io sono al primo piano, lo prendo in un certo modo, sono all'ultimo, prendo il satellitare in un altro modo, oppure no, non conta niente l'altezza? No, non conta niente, anche perché se io sono all'interno, al primo piano, è quasi sicuro che io non prenda nulla. Se sono all'interno, all'ultimo piano, forse da una finestra entra qualcosa, ma diciamo il segnale GPS all'interno degli edifici è un qualcosa che normalmente non viene utilizzato, non è disponibile. Va bene, grazie mille Crespi per la risposta. Grazie molte a buona voi. Buona serata, arrivederci. si è appena concluso a Vercelli un convegno sul libero arbitrio, ovvero quanto siamo liberi di decidere delle nostre azioni nella vita. Questo è un tema che di solito è trattato da filosofi, da sociologi, anche da scienziati della politica, però da non poco tempo è diventato anche un tema che viaggia all'interno delle ricerche sulla mente e quindi delle neuroscienze. E ospite a Möbius questa sera Arnaldo Benini. Buonasera Benini. Buonasera. Lei ha un'esperienza di neurochirurgia, è un neurologo, insegna all'Università di Zurigo e si sta interessando da tempo appunto di questo rapporto fra il funzionamento della mente, che stiamo studiando sempre di più negli ultimi anni, e questo concetto estremamente complesso di libero arbitrio. Senta Benini, parlando prima della trasmissione, appunto per impostare questa intervista, ci è venuta fuori, lei l'ha suggerita, una riflessione abbastanza interessante su uno dei casi di cronaca che è stato maggiormente all'attenzione di tutti in queste ultime settimane, ovvero il padre che ha dimenticato una sua figlia nella macchina e l'esito di questa cosa è stato, come sappiamo, drammatico. Vogliamo partire da qui? Questo ci darebbe l'occasione di affrontare il problema della responsabilità di quello che facciamo, perché tutti si sono chiesti com'è possibile che una persona dimentichi una figlia in automobile sotto il sole. Com'è possibile? Un padre poi di cui si sapeva che era una persona affettuosa, un padre ideale, com'è possibile? Il funzionamento del cervello ce lo spiega. È saputo oramai da molti anni, ma questo lo si vede per esempio anche negli animali, che la coscienza umana, i meccanismi nervosi che creano nel nostro cervello la coscienza, si possono occupare di un tema, di un argomento, di un problema alla volta, come se mancasse l'energia per occuparsi di, per prendere in considerazione più eventi contemporaneamente. Per gestire più segnali. Lo si vede anche negli animali. La zebra che è impegnata a bere perché è presa dall'arsura non si accorge che arrivi il coccodrillo e si fa sbranare. Quindi la scelta di una occupazione piuttosto che un'altra, di un tema piuttosto che un altro, non è legata neanche all'urgenza o all'importanza di quello che si fa. Quello che si vede dei meccanismi cerebrali è che quando un'occupazione o un problema prevale, l'attività degli altri centri che non sono coinvolti nell'elaborazione di questo evento cala. Lo si vede nelle risonanze magnetiche funzionali, lo si vede nelle elettroencefalografie speciali. Allora come facciamo a parlare di responsabilità di fronte a una cosa del genere? In quel padre i meccanismi che erano coinvolti nel problema che lui aveva allora, perché aveva delle lezioni universitarie, aveva altri problemi urgenti, hanno assorbito una quantità tale di energia presente nel suo cervello da mettere, come dire, in sottofunzione tutti i centri della memoria, finché poi non è tornato alla condizione di prima. Ecco, io leggo in un suo articolo anche di un altro esperimento, che un'altra serie di esperimenti che possono essere estremamente indicativi, e cioè il fatto che quando noi diciamo di decidere di muovere una mano per prendere per esempio un oggetto, in realtà, se andiamo a vedere cosa succede nella nostra mente, quella decisione è già stata presa prima, è già in atto prima. Sì, la decisione è stata presa degli algoritmi funzionali delle aree motorie del cervello e di altre aree del cervello. Il fatto che noi ne diventiamo coscienti è una tappa di questo meccanismo. Prima di prendere la decisione cosciente è attiva l'area motoria dell'arto che poi verrà mosso. Certi atti efferrati, che sono voluti, ad esempio violenze contro i bambini, queste cose, questi sono cervelli che non funzionano, sono nati, si sono sviluppati in una maniera che non è compatibile con la convivenza, in questo senso. Io considererei queste persone non dei criminali, anche se quello che fanno è ovviamente criminale. È chiaro che la società deve difendersi da questi cervelli malati, ma deve difendersi considerandoli delle persone che vanno curate. Perché sembra del tutto irrazionale. Certo. Una tale, per i nostri cervelli è una cosa totalmente irrazionale e appunto immonda. Per loro è normale. Arnaldo Benini, grazie, buonasera e buon lavoro. Grazie a lei per l'interesse a queste cose, grazie. La soluzione del quiz, vi ricordate, siamo tornati al 18 maggio del 1953, qual era la notizia importante che fece il giro del mondo? Allora, nave spinta da un reattore nucleare? No.